GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Forse dell'ingegnere gradese Alessandro Zaniboni il cadavere ritrovato in Sardegna, l'uomo era sparito nell'estate del 2021. Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale a Staranzano, morto un 57enne di Romas di Sonzo, probabile un malore. Caro energia, inflazione e maltempo penalizzano lo shopping natalizio, partito in sordina, si attende la 13ª. City incontro l'Ovo Via, questo pomeriggio a Trieste il comitato in piazza durante il Consiglio Comunale chiesto dalle opposizioni. La Regione finanzia lo studio di fattibilità per proteggere Barcola da mareggiate e innalzamento del livello dell'acqua. Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco a Gorizia, dopo i roghi sul Carso dell'estate vengono formati nuovi volontari. Calcio Serie C, il Pordenone sconfitto dalla Pro Vercelli, perde la testa della classifica, pareggio senza gol per la triestina con Feralpi Salò. Il basket regionale vince, la Pallacanestro Trieste batte la Reggiana in A2, successo per Cividale su Rimini, Udine rimonta a Chieti. Coppa del mondo di biathlon, Vittozzi quarta nella 10 km, in seguimento resta in testa alla classifica generale. 7:19 minuti di lunedì 5 dicembre, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli, subito uno sguardo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, le temperature a Trieste 11,5 gradi, a Gorizia e a Pordenone 8 gradi, a Udine 7 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 6 gradi, a Forni di Sopra 2,5 gradi, sul Piancavallo 1 grado positivo, a Sappada e a Tarvisio 0 gradi, sullo Zoncolan 0, sul Monte Lussano meno 1 grado, sulla costa Lignano 9 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, oggi il cielo sarà in prevalenza coperto, dopo una relativa pausa nelle prime ore del mattino, in giornata saranno probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, forse anche localmente intense sulle zone orientali. Possibili temporali, nevicate in genere moderate, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie, a partire da 1200-1400 metri circa, localmente a quote inferiori, specie nel pomeriggio sera. Sulla costa vento da sud moderato, in serata e nelle ore notturne sarà possibile la formazione di foschie o nebbie in pianura. Potrebbe essere di Alessandro Zaniboni, ingegnere 55enne di grado, il cadavere ritrovato ieri pomeriggio da alcuni cacciatori durante una battuta nel supramonte di Baunei in Ogliastra, in Sardegna. Zaniboni, specializzato in piattaforme petrolifere della Saipem e appassionato speleologo, era scomparso il 23 luglio del 2021 proprio nella zona di Baunei. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto a recuperare i resti dell'uomo, sui quali la Procura della Repubblica disporrà l'esame del DNA per avere la certezza sull'identità del cadavere. La scomparsa di Zaniboni, che si era trasferito in Sardegna per lavoro, è risultata subito un giallo. In un primo momento si era pensato che avesse deciso di effettuare un'escursione in quella zona, considerato che abitava in un paesino sul mare poco distante, che si fosse poi perso. La sua macchina era stata ritrovata a circa 10 chilometri dall'abitazione. Le ricerche erano proseguite per settimane, anche con unità cinofile molecolari, elicotteri e droni, ma del 55enne non era stata trovata nessuna traccia. Domenica di acquisti prenatalizi, un'altra giornata dedicata allo shopping. Dopo le occasioni del Black Friday abbiamo cercato di capire quanto la crisi e l'inflazione stanno intaccando le abitudini di spesa delle famiglie. Novembre non è stato un mese eccezionale, dicembre è partito sottotono, ma speriamo che si concluda bene. Dopo un autunno non brillante, entra finalmente nel vivo lo shopping natalizio. Consapevoli i negozianti che sarà dura superare gli incassi dell'anno scorso, si punta quantomeno al pareggio. Cercheremo di contenere le spese perché c'è stato un aumento in tutto. E quindi ci daremo alla pazza gioia, ma in maniera contenuta. Non spenderemo certamente più degli altri anni, ma sarà più o meno come gli anni scorsi e anzi staremo un pochino attenti. Non c'è solo l'inflazione con cui fare i conti. Le speranze degli esercenti si devono scontrare banalmente con il meteo, che non aiuta lo shopping in centro, ma anche col calendario. Quest'anno Natale cade di domenica. Vuol dire una domenica in meno a disposizione per fare i regali. Speriamo che più avanti, magari col passare dei giorni, la cosa migliori, nel senso che gli acquisti siano più frequenti che non i sondaggi. Consumi tiepidi almeno fino all'arrivo delle tredicesime, anche se a livello nazionale Confcommercio stima esborsi per i regali ai minimi da 15 anni a questa parte. Visti i tempi che corrono, c'è chi ha scelto di unire le forze anche per condividere le spese. Mi trasferirò, farò una sinergia assieme ad un altro collega, un negozio di scarpe da uomo, io con il mio abbigliamento uomo cercheremo di unire le cose per dare un po' una novità, ma per combattere comunque il caro prezzo degli affitti, il caro prezzo dell'energia. Si indugia più fuori dalle vetrine, si entra con meno decisione in negozio, l'impressione anche nei centri commerciali, impressione confermata a telecamere spente da alcuni responsabili di vendita. Forse taglierò più sulle marche, sul non essenziale, invece terrò comunque la famiglia, la parte del cibo, dello stare insieme. Cosa chiede a Babbo Natale quest'anno? Di fare un bel viaggio grande, lungo, questo chiedo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste il comitato Novo Via ha indetto per oggi un presidio sotto il municipio in concomitanza con il Consiglio Comunale straordinario richiesto dalle forze di opposizione. L'appuntamento dalle 18:30 in piazza Unità. Il comitato intende far sentire all'aula il proprio no per un'opera giudicata inutile, impattante, insostenibile. Sarà possibile ascoltare dalla piazza in diretta i lavori del Consiglio. È previsto anche un girotondo intorno al municipio per sottolineare, secondo il comitato, il mancato coinvolgimento della cittadinanza e la mancata trasparenza sul progetto. Quattro le ragioni principali della contrarietà all'Ovovia: per il comitato non ridurrebbe il traffico, i costi di gestione resterebbero a carico del comune, mancherebbero poi elementi fondamentali nel progetto e sussisterebbe comunque un divieto di costruire cabinovie in zona Natura 2000 come il Bosco Bovedo. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi alle 18 la valutazione ambientale strategica della variante al PRGC Accesso Nord Mobilità Sistematica e Turistica, sullo studio di incidenza della variazione del progetto preliminare e sulla conferenza dei servizi della cabinovia Trieste-Porto Vecchio-Carso. La richiesta di discutere una mozione urgente era stata presentata dall'opposizione in vista della conferenza dei servizi di fine dicembre. Il Consiglio, inizialmente programmato per lunedì scorso, era stato posticipato su richiesta del sindaco Roberto Di Piazza, che aveva chiesto di poter essere presente all'appuntamento. Intanto sulle pareti di roccia che sovrastano la Napoleonica è apparso uno striscione ed è stato diffuso sui social il video del blitz con uno stralcio di un'intervista sul tema al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. La Regione finanzierà uno studio per riqualificare il lungomare di Barcola a Trieste. Con la riconversione dell'area a caldo della Ferriera di Servola è stata avviata una rivoluzione industriale e portuale nel segno dello sviluppo sostenibile, ha spiegato l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, aggiungendo come proprio l'ambiente sia centrale anche nella rinascita del terrapieno di Barcola, su cui la Regione ha previsto 5 milioni di euro per la bonifica. La decisione di finanziare con fondi della Direzione Ambiente uno studio per la riqualificazione del lungomare è stata presa di concerto con il sindaco Di Piazza, aggiunto Scoccimarro, partendo dalla protezione della costa per arrivare ad un lungomare che sia più attrattivo per i triestini e per i turisti e con l'obiettivo di preservare Barcola dal previsto innalzamento del livello delle acque da mareggiate che già ora sono sempre più frequenti e intense. Gli incendi della scorsa estate, una delle emergenze più gravi degli ultimi anni, sono stati rievocati a Gorizia, dove una cerimonia si è tenuta nel comando provinciale dei Vigili del Fuoco in occasione della patrona Santa Barbara. Gli uomini del comando isontino sono stati quelli più duramente impegnati sul fronte dei roghi boschivi. Nella caserma dei Vigili del Fuoco di Gorizia, dove quest'estate erano impegnati per settimane a combattere l'incendio più devastante che si sia visto sul Carso, nella giornata di Santa Barbara c'era spazio per le famiglie e i bambini che potevano seguire da vicino le manovre dell'autoscala e l'esercitazione dei cani dell'unità cinofila. Il comandante provinciale Alessandro Granata, che tra due giorni prenderà servizio a Lecco, ci ha confermato che l'incendio di quest'estate era il più impegnativo e violento che avesse visto nella sua carriera. Il solo rifornimento e l'approntamento idrico ad opera dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale in un'estate così siccitosa è stato un gran lavoro, ricorda. Contro l'incendio è una guerra, che alla fine abbiamo vinto, però con grande impegno, grande sacrificio. Sono stati giorni molto drammatici in cui tutte le forze erano impegnate a salvare la popolazione e le loro abitazioni. Tuttavia, alcuni cittadini lamentavano che non entravate nel bosco a spegnere le fiamme. Non si opera in questa maniera. Il bosco va circondato, il bosco incendiato, e presidiato su tutti i fianchi. Si aspetta e si va spegnendo man mano che si allarga. Non si entra nel bosco, assolutamente no, al di là del fatto che non è un'azione efficace, è una questione di tecnica di spegnimento. Di giorno abbiamo i mezzi aerei, fra gli elicotteri canadeiri, che hanno fatto un grandissimo lavoro, devo dire. La presenza dei vigili del fuoco sul territorio sta per rafforzarsi con l'istituzione del distaccamento volontario di Grado, che sarà operativo a breve. Attualmente può contare su 20 volontari, ma a Gorizia ne stanno formando di nuovi, 40 sono i candidati. Volontari che un giorno potrebbero anche entrare in organico, dal momento che da fonti nostre l'Isontino, con 224 vigili del fuoco, è sotto organico di alcune decine di unità. Gorizia, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco di Udine celebreranno presso la sede del comando provinciale la ricorrenza della patrona oggi. Il comandante provinciale Giorgio Basile deporrà una corona d'alloro davanti alla lapide che ricorda il personale deceduto in servizio. Alle 10:30 la Santa Messa celebrata dall'arcivescovo di Udine Mazzoccato. Al termine la lettura dei messaggi del ministro dell'Interno e del capo del Corpo Nazionale, e poi il bilancio dell'attività svolta durante l'anno e la consegna delle onorificenze. I cancelli della sede di Via Popone rimarranno aperti dalle 14 alle 17 per tutti coloro che vorranno visitare la caserma. Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale lungo la strada del Brancolo, vicino a Marina Iulia. Dopo aver perso il controllo dell'automobile a causa di un malore, è finito in un canale pieno d'acqua. Immediato l'intervento della Sores, che ha inviato sul posto l'elisoccorso e l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone, insieme ai vigili del fuoco di Gorizia e alle forze dell'ordine. Pompieri e personale sanitario hanno estratto l'uomo dalla vettura immersa nell'acqua, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sergio Birsa, residente a Romans di Sonzo, era già privo di vita. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente, accaduto in prossimità del ponte della Checca, tra Staranzano e Marina Iulia. E c'è stato un incidente nella tarda serata di ieri a Fiume Veneto. In via Alighieri un uomo ha perso il controllo della macchina, che è finita fuori strada e si è cappottata. Il conducente è stato aiutato a uscire dall'abitacolo dalle persone che si trovavano sul posto, poi assistito dai sanitari che lo hanno stabilizzato e portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Sul posto anche i vigili del fuoco. Intorno alle 5:30 di questa mattina, incidente stradale sul cavalcavia dell'autostrada nel territorio di Porpetto, in località Castello. Anche qui il conducente di una vettura ha perso il controllo della propria macchina ed è rimasto ferito. È stato portato all'ospedale di Palmanova. Anche con il freddo e la bora di questi giorni continua ininterrotto il flusso di migranti in ingresso dalla rotta balcanica. Trieste diventa punto di primo arrivo di persone che hanno bisogno davvero di tutto, e la sera, Piazza Libertà, davanti alla stazione centrale, diventa il luogo dove i volontari prestano un primo soccorso. È conosciuta come Piazza del Mondo. Ogni sera si riempie di migranti che non sanno dove trovare un pasto caldo o la prima assistenza. Il medico nel centro diurno della Caritas è pieno di lavoro. L'80% di loro sono in transito, per gli altri invece non c'è un posto nel sistema di accoglienza. Qui si riceve un sorriso e il calore umano. Tutto è partito da Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'Ombra. Sono testimone di queste vite infrante, di queste vite che i confini ci restituiscono spezzate, rotte, disumanizzate, senza identità. In piazza ci sono anche i valdesi, la comunità San Martino al Campo e l'ICS. E poi ci sono i volontari, come Goga, ex scienziata dell'ICTP. La signora Doriana ha portato da crema berretti e scaldacollo. Un'altra sera, quando la bora rende il freddo ancora più pungente, troviamo i volontari di un'associazione di Padova che ha riempito i magazzini di aiuti e in piazza ha distribuito giubbotti e couscous. Noi abbiamo conosciuto la Linea d'Ombra tramite servizi televisivi e tramite social media. È lo stesso lavoro di cura che noi facciamo in tutti i territori dove portiamo aiuti. Trovarci qui all'aperto, in mezzo al vento, con tutti questi ragazzi che hanno freddo e fame, è qualcosa che non sembra, ripeto, qualcosa di cui non sono abituato a vedere. Anche Ismail, rifugiato pakistano che ha deciso di aiutare chi ha sofferto come lui, invita a conoscere la piazza del mondo. Io la inviterei a tutti i cittadini triestini, anche tutti quanti, di venire qua ad ascoltare anche singola persona e ad ascoltarlo cosa c'è dietro, cosa l'ha spinto di fare il suo viaggio ad arrivare qua. Ogni sera che torno a casa c'è una storia che mi spinge e poi mi fa pensare tanto in profondo. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione della festività di San Nicolò, patrono e protettore della comunità greco-orientale alle 18, nella chiesa di San Nicolò, Monsignor Georgios, vescovo di Crati, officerà la celebrazione del Vespro Solenne e la benedizione del pane domani alle 10, la divina liturgia della festa. Parteciperà il gruppo ecumenico di Trieste. A Monfalcone la tradizionale fiera di San Nicolò, saranno 200 le bancarelle presenti per tutta la giornata di oggi lungo le vie del centro cittadino, alle quali, novità di quest'anno, si affiancheranno i banchi di 24 attività commerciali presenti in città che potranno esporre e vendere la propria merce all'aperto a titolo gratuito, senza dover corrispondere al comune la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per snellire il traffico è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito. Il comune di Monfalcone e APT garantiscono infatti ai cittadini un servizio navetta attivo dalle 9 alle 20, con corsi ogni 20 minuti, che farà la spola tra il parcheggio del San Polo e il centro città. Il sindaco Anna Maria Cisinta ha firmato un'ordinanza antivetro che vieta di vendere o mescere bevande in contenitori di vetro, tranne che per il consumo immediato sul posto e all'interno dei locali. Anche l'Università di Udine parteciperà al primo festival delle regioni e delle province autonome in programma oggi a Milano. A contribuire per conto dell'Ateneo Friulano sarà la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Elena D'Orlando, che è anche presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione e che ci ha spiegato perché le regioni autonome come la nostra possono rappresentare un modello da imitare per il buon coordinamento degli enti del territorio. L'idea da cui io parto è che proprio le autonomie speciali e in particolare le autonomie speciali dell'arco alpino possono costituire un modello di riferimento anche per le altre autonomie regionali in questo senso. Perché le autonomie speciali dell'arco alpino? Perché noi, come il Trentino, l'Alto Adige e la Valle d'Aosta, non solo possiamo disciplinare il sistema degli enti locali, ma abbiamo anche una competenza per quanto riguarda la finanza locale, cioè le risorse. Ricordo infatti che la nostra regione, tra l'altro, ha anche di recente esercitato la sua competenza in materia di tributi locali. Quindi questo che cosa significa? Significa che nelle realtà speciali dell'arco alpino la regione ha creato un sistema integrato con i propri enti locali che è molto importante perché? Perché da una parte è un sistema unito nel momento in cui la regione, per esempio, deve contrattare con lo Stato le risorse di cui può disporre. Dall'altra parte è importante perché la regione stessa poi è responsabile di queste risorse e le governa in un rapporto di leale collaborazione con gli enti locali al proprio interno. Quindi diciamo, questo a mio modo di vedere è un modello molto più maturo e molto più responsabile anche di concepire, se vogliamo, la stessa unità della Repubblica dentro la quale noi ci collochiamo. E spero che questo modello venga capito, apprezzato e magari anche un domani imitato dalle altre realtà regionali. Il coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste con il Forum Salute Mentale, che del coordinamento è parte, e con le associazioni per la salute del territorio organizza l'incontro Il sogno di una cosa migliore sulla legge di riforma sanitaria del 1978, i cui principi di vicinanza, equità, libertà, dignità, dice il coordinamento, rischiano di essere cancellati. Sarà proiettato Il viaggio di Marco Cavallo, film di Erika Rossi, alle 17.30 al Cinema Ariston di Viale Romolo Gessi. E adesso apriamo la pagina dello sport, cominciamo dal calcio. In Serie C il Pordenone è battuto per 2-0 sull'erba della Provercelli, la Triestina conquista un punto grazie allo 0-0 a Rocco contro Feralpi Salò. Il Pordenone subisce la sua quarta sconfitta nel campionato di C e perde la testa della classifica. Succede sul campo della Provercelli. Un gol per tempo per la squadra di Massimo Paci, che sicuramente non ha dimenticato l'esonero della scorsa stagione sulla panchina neroverde. A spezzare gli equilibri alla mezz'ora il gol di Matteo Della Morte, che di sinistro supera Martinez. Poco Pordenone sul sintetico piemontese. Nella ripresa Piscopo e Pinato sono le scelte di Di Carlo per trovare pericolosità, ma il tredicesimo il raddoppio di Della Morte chiude di fatto la gara. Giorico, il più pericoloso del Pordenone, ma l'ultima emozione è la traversa colpita da Comi per la formazione di Paci. La sconfitta fa scivolare i neroverdi al secondo posto del girone A, merito della quarta vittoria di fila del Vicenza, che guida a quota 32 punti. Con il Pordenone, con un punto in meno, Prosesto e Feralpi Salò, i gardesani del tecnico Vecchi, sono fermati nella loro corsa sul campo di una Triestina finalmente capace di raccogliere almeno un punto. Nel primo tempo alabardati che provano a rendersi pericolosi con Adorante, mentre la Feralpi è incapace di creare occasioni. Arriva soltanto nella ripresa il primo tiro in porta della squadra di Vecchi, prima del tentativo di Minesso fermato da Pizzignacco. Nel finale la conclusione di Pietrelli per i gardesani fuori di poco. Con il pareggio e la prima gara senza subire gol, la squadra di Pavanel rimane all'ultimo posto in classifica, quota 12 punti, ma in compagnia del Piacenza. Domenica prossima la sfida di vertice tra Pordenone e Vicenza, mentre gli alabardati saranno di scena sul campo del San Giuliano. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il basket. In A, vittoria importante della pallacanestro Trieste, che in trasferta batte la Reggiana. Trieste conduce per tutta la gara e, nonostante si complichi la vita negli ultimi minuti, vince a Reggio Emilia per 84-79. Un risultato che toglie i biancorossi dall'ultimo posto in classifica, dove rimane proprio la Reggiana. Una buona prova corale, dove comunque spiccano il solito Bartley con le sue realizzazioni, Davis con i suoi assist e un concretissimo Packer. In crescita Lever, continua in maniera positiva l'inserimento di Ruzier, autore di una pregevole palla recuperata nei momenti finali della partita, ma continua a mancare all'appello Spencer. Abbiamo vinto una partita molto difficile, l'abbiamo vinta da uomini, i giocatori sono stati eccezionali nell'eseguire quello che abbiamo preparato, ha detto il coach Legovic. Perdere all'overtime contro Brescia la scorsa settimana per una squadra che sta crescendo è stato un duro colpo, ha concluso Legovic. Oggi abbiamo riscattato quella sconfitta. E passiamo alla A2. Gesteco Cividale vince in rimonta in casa di Rimini per 72-70. Partono bene le Eagles, che con Pepper e Clark realizzano un parziale di 0-8, ma Rimini recupera lo svantaggio allungando fino al 45-33 al ventunesimo. Allo scadere del terzo quarto il risultato è di 62-50, poi uno 0-7 di parziale permette alla Gesteco di accorciare a 5 punti di distanza. Rimini risponde con Johnson, ma poi si fa sentire Clark. 3 le triple messe a segno dal nuovo giocatore di Cividale e 11 punti totali che mandano la Gesteco sul 69-72 a un minuto dalla fine. A pochi secondi Johnson ha la palla in mano per la vittoria, tira dai 6,75, ma il suo tiro finisce sul ferro. Vince Cividale. Nel prossimo turno, mercoledì alle 20.45, la Web Gesteco Cividale ospiterà l'APU Udine in un palagesteco da tutto esaurito. Ma sentiamo coach Pillastrini a fine match. È ovvio che sono molto contento, anche perché abbiamo giocato contro un'eccellente squadra che ha giocato tre quarti di alto livello, strozzandoci con una difesa veramente, veramente efficace. Noi avevamo partiti bene, poi diciamo dal sesto, settimo minuto fino al trentesimo, trentaduesimo, la difesa di Rimini ha dominato la partita. Poi siamo stati davvero bravi nel finale. E sempre in A2, gran finale di gara che premia la Paul Wild West Udine con la testa del girone dopo aver sofferto per tre periodi contro un arrembante Chieti. L'APU centra la seconda vittoria consecutiva, aggancia Pistoia in vetta al girone rosso di Serie A2. Miglior giocatore Sherry, l'autore di 20 punti. Prossimo appuntamento sarà mercoledì al Pala Gesteco contro Cividale. Sentiamo il commento di coach Bonicioli a fine gara con un occhio già al derby. È chiaro che se dovessimo ricominciare a divertirci come abbiamo fatto a Ravenna, la possibilità di competere e anche di vincere contro una squadra eccellente come Cividale sono alte, È chiaro altrettanto che se dovessimo vivere il derby di Cividale non come uno dei più bei momenti della stagione, in termini sarà pieno il palazzo, ci saranno tifoserie, ci sarà un bel clima, ma se dovessimo vivere questa cosa qua come se dovessimo andare in un vagone blindato nelle miniere di Sulcis, allora è chiaro che sarà un po' complicato. Però di questo parleremo nei prossimi due giorni. Per il momento portiamo a casa la 12ª vittoria su 15 partite ufficiali in questa stagione, portiamo a casa il primo posto a pari merito con Pistoia, portiamo a casa la vittoria complicata contro una squadra che due settimane fa a 5 minuti dalla fine era 5 punti avanti a Bologna con la Fortitudo. Prendiamo il buono che c'è da prendere di questa partita e impariamo da tutto quello che di cattivo c'è, ma non di tecnico, ma di emozionale, e con la collaborazione di tutti affrontiamo con gioia un bel momento di basket della Regione Friuli Venezia Giulia. Lisa Vitozzi è ancora al comando della classifica di Coppa del Mondo di biathlon, dopo essere arrivata quarta ieri nella 10 km ad inseguimento a Kontiolahti in Finlandia. La Sappadina è stata perfetta nei primi tre poligoni, restando in testa dall'inizio del primo fino all'arrivo al quarto. Qui ha commesso un errore e costato il terzo podio in altrettante gare stagionali. Da giovedì di nuovo in pista a Hochfilzen in Austria. E torniamo al calcio e alla Serie D. Tor Viscosa sconfitta in casa dal Montecchio per 2-1. Charlie Smuzzane battuto a Legnago per 1-0. In Serie B femminile il Tavagnacco si arrende al San Marino, che sull'erba friulana vince per 5-2. Volley a due femminile, Itas Ceccarelli Martignacco rimontata e sconfitta in casa da San Giovanni in Marignano per 3-2. La Cidia Talmassons si impone facilmente in trasferta a Messina, 3-0. Pallamano Trieste pareggia in trasferta 23-23 con il Cassano Magnago al termine di un match che l'ha vista a lungo all'inseguimento della sua avversaria. Risultato positivo che, se da un lato allontana ulteriormente dalla formazione di Radojković da una vetta che vede Appiano scappare a più 4, dall'altra consente ai biancorossi di mantenere il secondo posto solitario della classifica. Passiamo a cultura e spettacoli. È in pieno svolgimento al Teatro Verdi di Trieste le prove della Bohème, secondo titolo della stagione. Il debutto è fissato per il 9 dicembre, un allestimento progettato insieme al cast prima dello stop per la pandemia e che adesso finalmente va in porto. L'intervista a Christopher Franklin, il maestro americano che dirigerà il capolavoro di Puccini. Pranzare in casa della vigilia. Anche per noi rivisitare questo Bohème è incredibile, perché era proprio questa produzione che stavamo facendo 2 anni fa, marzo 2020, quando è scoppiata tutta questa pandemia. E quindi quando ci siamo rivisti qua a Trieste abbiamo detto, è una specie di reso dei conti, si può dire, no? del passato. E quindi per noi personalmente di poter fare questa produzione che portarlo anche in fondo sarà una grandissima gioia. La cosa che ci aiuta moltissimo qua è anche di avere due giovani cast di cantanti attori, che è fondamentale per questo titolo. Non è uno di quei titoli dove si sta fermo e si canta l'aria e poi si esce. I ragazzi si sono veramente divertiti montando questo spettacolo, che non è sempre il caso. C'è un aspetto della partitura di Puccini che secondo lei non viene messo in evidenza, che lei vuole mettere in evidenza? Vabbè, non voglio pretendere che io ho scoperto la ruota, l'ho scoperto l'America. La cosa di Puccini che non sfugge mai, se guardi bene, sono tantissime piccole cose di dinamiche. Lui era un maestro di orchestrazione, ma anche lui usa l'orchestra come il coro greco, quindi una specie di drammaturgia anche in buca. E questo dobbiamo concentrarci sempre. Certo, bisogna accompagnare queste grandi melodie con passione, però non perdendo mai di vista il palcoscenico e la parola drammatica. Questo è molto Verdi anche, ovviamente, ma in Puccini la stessa cosa. Tutti i professori canticchiano insieme ai cantanti, che la sanno talmente bene, però c'è anche questo pericolo di andare un po' in autopilota e dobbiamo stringere e fare sì che il palcoscenico può risalire e può arrivare fino in platea. Trieste, Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Torna al Rossetti di Trieste la Parsons Dance, compagnia creata e diretta dall'eclettico coreografo caposaldo della danza postmoderna americana David Parsons. Alle 20.30 proporrà un programma summa del meglio di più di 70 coreografie originali su musiche che spaziano dal repertorio classico di Rossini e Mozart al jazz di Phil Woods e Miles Davis, alla musica brasiliana di Milton do Nascimento, al rock di Robert Fripp. Stasera e domani al Teatro Verdi di Pordenone alle 20.45 in scena lo spettacolo Edipo Re, una favola nera di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, un lavoro che ripercorre e richiama la storia delle rielaborazioni letterarie, ma non solo, del mito greco in una interpretazione nuova. 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, alle 18.30 alla stazione Rogers la presentazione del progetto Pasolini on the Road, con alcuni frammenti di lettura e brani musicali tratti dalla lunga strada di sabbia di Pierpaolo Pasolini e la preview del percorso drammaturgico dedicato a Giuseppe Zigaina e al suo rapporto con Pasolini nell'ambito della rassegna Storie nell'arte. Sempre oggi, ma a Udine, nella sede della Regione, alle 11.30 sarà presentata la mostra PPP 100, il cinema di Pasolini visto dai manifesti, organizzata dalla Cineteca di Gemona. Questa mattina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà svelata un'opera di Giorgio Celiberti dedicata a Rodolfo Castiglione, Federico Esposito e Aldo Rinaldi, protagonisti della vita culturale e teatrale della città di Udine. La collocazione dell'opera fa parte delle iniziative per festeggiare i 25 anni del Teatro Nuovo alle 11. Da un'Europa di guerra a un'Europa di diritti, l'impegno della società civile in Russia e Ucraina. Questo è il tema di un incontro organizzato da Dialoghi Europei, a cui parteciperanno il presidente di Memorial Italia Andrea Gullotta, la consulente internazionale per le questioni di genere Eugenia Benigni e il curatore della nostra rubrica Est-Ovest Walter Scherk, a Trieste, nella sede dell'iniziativa centroeuropea, in via Genova 9, alle 17.30. In prima pagina, sul piccolo, l'economia con gli effetti dei rincari sulle scelte delle famiglie in Friuli Venezia Giulia. La cronaca di Trieste apre con la stretta finale per il campus di Via Rossetti, trattativa online tra Cassa Depositi e Prestiti e il sindaco di piazza, dopo i 10 milioni stanziati dalla Regione. E poi ancora la chiusura del ricreatorio De Amicis dopo i cedimenti al tetto e le polemiche per l'imminente trasferimento alla REMS di Aurisina di Alejandro Meran, che 3 anni fa aveva ucciso 2 agenti in questura a Trieste. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone la cronaca con l'incidente costato la vita a un uomo finito nell'auto in un canale e il ritrovamento in Ogliastra di un cadavere che potrebbe essere quello dell'ingegnere di grado Alessandro Zaniboni. Il picco dell'influenza che colpisce i bambini e l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia la messa nella miniera di Cave del Predil per Santa Barbara. C'è anche lo studentato di fronte alla stazione che da gennaio ospiterà 93 universitari, ha aperto il bando per gli alloggi e lo scontro frontale tra auto ieri a Campo Formido con una donna anziana ferita. A destra una colonna di sport dai mondiali all'Udinese alle vittorie del basket in taglio alto. La A4 fra le strade più pericolose d'Italia insieme alla Pontebbana. Smog, il traffico soffoca il Friuli e l'apertura del Gazzettino. Nella fotonotizia un'immagine della staffetta Teleton conclusa ieri, poi a Moimacco il restyling da 5 milioni per Villa De Claricini e la carenza di farmacie in montagna. In taglio basso lo sport. Per quanto riguarda Gorizia, il richiamo in prima pagina sul Messaggero Veneto è per il botta e risposta fra Gorizia e Monfalcone sul 2025. È di tutti, ma restate al vostro posto, è la risposta alle richieste dell'assessore monfalconese Luca Fasan. Sul Gazzettino d'Orso di Pordenone la fotonotizia per le celebrazioni dei Vigili del Fuoco di Santa Barbara. In 4 anni arriveranno 3 caserme nuove a Pordenone, San Vito e Sacile. Oggi in consiglio a Pordenone si parlerà del grattacielo da 12 piani progettato per via Molinari. In taglio basso il calcio, Nero Verdi, la sconfitta a Vercelli, Costel Primato. Sul Messaggero Veneto a centropagina l'accensione dell'albero all'Uncinetto realizzato con 700. Formelle dalle volontarie per la cronaca, radioline, targhe finte, guanti, così lavorava la banda di ricercati per furti in città. 4 sono ancora in fuga. In taglio basso arriva lo sfratto per il pane e vini, il fuoco dell'Epifania in comina. Per venire incontro alle tante necessità delle famiglie povere che si rivolgono alla parrocchia chiedendo sostegno, la San Vincenzo di Gretta organizza da oggi a mercoledì il mercatino di Natale nelle sale della parrocchia Santa Maria del Carmelo, dalle 15 alle 19. Oggi è la giornata mondiale del suolo. AIAB, l'Associazione Italiana di Agricoltura Biologica, ha programmato un seminario online che inizierà alle 17, intitolato Il terreno agrario, escursione virtuale nei terreni regionali e nel mondo della sua componente più complessa, la sostanza organica. L'appuntamento sarà guidato da Stefano Barbieri dell'ERSA Friuli Venezia Giulia e Carla Scotti. Iter, iscrizioni gratuite dal sito di AIAB Friuli Venezia Giulia. Organizziamoci contro il carovita è il titolo dell'incontro organizzato dal comitato Stop Tip di Udine, che aderisce alla campagna nazionale che vede in programma oggi assemblee in tutta Italia contro la legge di bilancio che, si legge, fa cassa sui poveri e taglia i diritti. Alla birreria sociale Birra Store di Viale Vatt 64-66 dalle 17 alle 19, collegamento con l'Assemblea Romana e costituzione del comitato locale. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire WEOF Evelyn D parlerà di due volumi in friulano per le scuole elementari realizzati dall'Arlef alle 11.20, prima puntata di Tra le parole e il cuore, a mezzogiorno la voce di Callio per i programmi regionali. Torneranno poi alle 13.29. E prima di salutarvi segnaliamo che oggi non andrà in onda l'onda verde regionale. In regia Bassia Crismancic, Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Manuel Bussani, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.